Ad alta voce, Ermanna Montanari legge Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez, traduzione di Enrico Cicogna. Lo zingaro che dirigeva lo spettacolo annunciò: e ora, signore e signori, mostreremo la terribile prova della donna che dovrà essere decapitata tutte le notti a quest'ora per 150 anni come castigo per aver visto quello che non doveva. José Arcadio e la ragazza non assistettero alla decapitazione. Andarono nella tenda di lei e lì si baciarono con un'ansia disperata mentre si spogliavano a poco La zingara si sbarazzò dei suoi corpetti sovrapposti, dei suoi numerosi gonnellini di pizzo inamidato, del suo inutile bustino di fil di ferro, del suo carico di conterie, e si ridusse praticamente a un nulla. Era una ranina languida, coi seni incipienti e le gambe così magre che in diametro erano meno delle braccia di José Arcadio. Ma aveva una fermezza e un calore che compensavano la sua fragilità. Ciò malgrado, José Arcadio non poteva ricambiarla, perché si trovavano in una specie di tenda pubblica, dove gli zingari passavano con le loro cose da circo e si facevano gli affari loro, e magari si fermavano vicino al letto per una partita ai dadi. La lampada, appesa all'asta centrale, illuminava tutto l'ambito. In una pausa delle carezze, José Arcadio si stirò nudo nel letto, senza sapere che cosa fare, mentre la ragazza cercava di incoraggiarlo. Una zingara, dalle splendide carni, entrò poco dopo accompagnata da un uomo che non faceva parte della farandola, ma che non era nemmeno del villaggio, e ambedue cominciarono a svestirsi davanti al letto. Senza intenzione, la donna guardò José Arcadio e esaminò con una specie di fervore patetico il suo magnifico animale a riposo. «Ragazzo!» esclamò. «Che Dio te lo conservi!» La compagna di José Arcadio li pregò di lasciarli in pace e la coppia si stese per terra assai vicino al letto. La passione altrui risvegliò la febbre di José Arcadio. Al primo contatto le ossa della ragazza parvero disarticolarsi con uno scricchiolio disordinato come quello di un mucchietto di tessere da domino, e la sua pelle si sciolse in un sudore pallido e i suoi occhi si riempirono di lacrime e tutto il suo corpo esalò un lamento lugubre e un vago odore di fango. Ma sopportò la cozzata con una forza d'animo e un coraggio ammirevoli. José Arcadio si sentì allora elevato verso uno stato di ispirazione serafica, dove il suo cuore si disfece in una sorgente di dolci oscenità che entravano nella ragazza per le orecchie e gli uscivano dalla bocca tradotte nella sua lingua. Era giovedì. La notte del sabato, José Arcadio si legò uno straccio rosso in testa e se ne andò con gli zingari. Quando Ursula scoprì la sua assenza, lo cercò per tutto il villaggio. «Si è fatto zingaro!» gridò a suo marito, che alla notizia della scomparsa non aveva dimostrato la minima preoccupazione. «Magari fosse vero!» disse José Arcadio Buendía, pestando nel mortaio la materia mille volte pestata e riscaldata e ripestata. «Così imparerà a essere uomo!» Ursula domandò da che parte se ne erano andati gli zingari. Continuò a domandare lungo la strada che le indicarono e, credendo che avrebbe fatto ancora in tempo a raggiungerli, continuò ad allontanarsi dal villaggio, finché scoprì di essere così lontana che non pensò più di tornare. José Arcadio Buendía non si accorse della scomparsa di sua moglie fino alle 8 di sera, quando lasciò la materia in caldo in un letto di sterco e andò a vedere che cosa succedeva alla piccola Amaranta, arrochita a furia di piangere. In poche ore riunì un gruppo di uomini bene equipaggiati, lasciò Amaranta a una donna che si offrì di allattarla e si perse per sentieri invisibili alla ricerca di Ursula. Aureliano li accompagnò. Dei pescatori indigeni, la cui lingua non conoscevano, fecero capire a gesti che non avevano visto passare nessuno. Dopo 3 giorni di inutili ricerche, tornarono al villaggio. Per parecchie settimane José Arcadio Buendía si lasciò vincere dalla costernazione. Una volta Pilar Ternera si offrì di occuparsi delle faccende di casa in attesa che Ursula tornasse. Aureliano, il cui misterioso intuito si era sensibilizzato nella disgrazia, ebbe un lampo di chiaroveggenza vedendola entrare. Allora seppe che in un certo modo, inspiegabile, lei aveva la colpa della fuga di suo fratello e della conseguente scomparsa di sua madre, e la incalzò in modo tale con una silenziosa e implacabile ostilità che la donna non tornò a mettere piede nella casa. Il tempo mise le cose a posto. José Arcadio Buendía e suo figlio non seppero come né quando si ritrovarono nel laboratorio a spolverare, ad accendere il fuoco sotto la tanor, dediti ancora una volta alla paziente manipolazione della materia, addormentata da diversi mesi nel suo letto di sterco. Perfino Amaranta, coricata in un cestino di vimini, osservava con curiosità l'assorbente lavoro di suo padre e di suo fratello nello stanzino rarefatto dai vapori di mercurio. Qualche mese dopo la partenza di Ursula, cominciarono a succedere cose strane. Un flacone vuoto, che per parecchio tempo era rimasto dimenticato in un armadio, si fece così pesante che fu impossibile smuoverlo. Una casseruola piena di acqua, collocata sul banco di lavoro, bollì senza fuoco per mezz'ora, finché evaporò completamente. José Arcadio Buendía e suo figlio osservarono quei fenomeni con sbigottita contentezza, senza riuscire a spiegarseli, ma interpretandoli come annunci della materia. Un giorno il cestino di Amaranta cominciò a muoversi per impulso proprio e fece un giro completo nella stanza con grande costernazione di Aureliano, che si affrettò a fermarlo. Ma suo padre non si turbò. Rimise il cestino al suo posto e lo legò alla gamba di un tavolo, convinto che l'avvenimento atteso era imminente. Fu in quell'occasione che Aureliano lo sentì dire: «Se non temi Dio, temi i metalli». Improvvisamente, quasi 5 mesi dopo la sua scomparsa, tornò Ursula. Arrivò eccitata, ringiovanita, con vestiti nuovi, di foggia sconosciuta, nel villaggio. José Arcadio Buendía resistette a malapena al colpo. «Era questo», gridava. «Sapevo che sarebbe successo». Ma la donna non condivideva la sua gioia. Gli diede un bacio convenzionale, come se non fosse stata assente più di un'ora, e gli disse: «Affacciati alla porta». José Arcadio Buendía ci mise parecchio a rimettersi dalla perplessità quando uscì in strada e vide la folla. Non erano zingari. Erano uomini e donne come loro, coi capelli sciolti e la pelle scura, che parlavano nella loro stessa lingua e si lamentavano degli stessi dolori. Venivano dall'altra parte della palude, a 2 soli giorni di viaggio, dove c'erano villaggi che ricevevano la posta tutti i mesi e conoscevano le macchine del benessere. Ursula non aveva raggiunto gli zingari, ma aveva trovato la strada che suo marito non aveva potuto scoprire nella sua vana ricerca delle grandi invenzioni. Il figlio di Pilar Ternera fu portato in casa dei suoi nonni dopo 2 settimane dalla nascita. Ursula lo accolse di malavoglia, sconfitta ancora una volta dalla ostinazione di suo marito, che non poté tollerare l'idea che un rampollo del suo sangue rimanesse a navigare alla deriva, ma pretese la condizione che si nascondesse al bambino la sua vera identità. Anche se gli fu imposto il nome di José Arcadio, finirono per chiamarlo semplicemente Arcadio, per evitare confusioni. In quel periodo c'era tanta alacrità nel villaggio e tante faccende in casa che la cura dei bambini rimase in secondo piano. Li affidarono a Visitación, un'india huayra che era arrivata nel villaggio con un fratello per sfuggire a una peste di insonnia che flagellava la sua tribù ormai da parecchi anni. Erano tutti e due così docili e servizievoli che Ursula li prese a suo carico perché la aiutassero nelle faccende domestiche. Fu così che Arcadio e Amaranta parlarono la lingua huayra prima ancora dello spagnolo e impararono a bere brodo di lucertoline e a mangiare uova di ragni senza che Ursula se ne accorgesse, perché era troppo affaccendata in una promettente industria di animaletti di caramello. Macondo era trasformata. La gente che era arrivata con Ursula divulgò la buona qualità del terreno e la sua posizione privilegiata nei confronti della palude, di modo che lo spoglio paesetto di altri tempi si trasformò assai presto in un villaggio attivo, con negozi e botteghe artigiane e una via di ininterrotti traffici commerciali. Da lì, appunto, arrivarono i primi arabi con babbucce e anelli alle orecchie a barattare collane di vetro contro pappagalli. José Arcadio Buendía non ebbe un istante di riposo. Affascinato da una realtà immediata che allora gli parve più fantastica del vasto universo della sua immaginazione, perse ogni interesse nel laboratorio di alchimia. Mise a riposo la materia estenuata da lunghi mesi di manipolazione e tornò a essere l'uomo intraprendente dei primi tempi che decideva il tracciato delle strade e la posizione delle nuove case, in modo che nessuno godesse di privilegi che non avessero tutti. Emancipato almeno per il momento dalle torture della fantasia, José Arcadio Buendía impose in poco tempo uno stato di ordine e di lavoro dentro il quale si permise soltanto una licenza, la liberazione degli uccelli, che dall'epoca della fondazione rallegravano il tempo coi loro flauti e la loro sostituzione con orologi musicali in tutte le case. Fu sempre José Arcadio Buendía a decidere in quegli anni che per le strade del villaggio si seminassero mandorli invece di acace e lui a scoprire, senza rivelarli mai, i metodi per renderli eterni. Molti anni dopo, quando Macondo diventò una borgata con case di legno e tetti di zinco, nelle strade più antiche c'erano ancora i mandorli spezzati e polverosi, anche se allora nessuno sapeva chi li aveva seminati. Mentre suo padre metteva in ordine il villaggio e sua madre consolidava il patrimonio domestico, con la sua meravigliosa industria di galletti e di pesci caramellati, Aureliano viveva ore interminabili nel laboratorio abbandonato, imparando, per puro amore di ricerca, l'arte dell'orafo. Si era allungato tanto che in poco tempo non gli servì più la roba lasciata da suo fratello e cominciò a usare quella di suo padre. Ma fu necessario che Visitación gli accorciasse le camicie e gli stringesse i pantaloni perché Aureliano non aveva ereditato la corpulenza degli altri Buendía. L'adolescenza gli aveva tolto la dolcezza della voce. Lo aveva reso silenzioso e definitivamente solitario, ma in cambio gli aveva restituito l'espressione intensa che aveva nello sguardo quando era nato. Era così concentrato nei suoi esperimenti di orificeria che lasciava malincuore il laboratorio per mangiare. Preoccupato di quella sua introversione, José Arcadio Buendía gli diede le chiavi di casa e un po' di denaro, pensando che forse aveva bisogno di una donna. Ma Aureliano spese il denaro in acido muriatico per preparare acqua ragia e abbellì le chiavi con un bagno di oro. Le sue esagerazioni erano appena paragonabili a quelle di Arcadio e di Amaranta, che avevano cominciato a mettere i denti nuovi. Ma ancora stavano attaccati tutto il giorno alla coperta degli indios, caparbi nella loro decisione di non parlare lo spagnolo, ma la lingua huayra. «Non hai di che lamentarti», diceva Ursula a suo marito. «I figli ereditano le mattane dei loro genitori». E mentre si lamentava della sua cattiva sorte, convinta che le stravaganze dei suoi figli fossero qualcosa di tanto spaventoso quanto una coda di maiale, Aureliano la fissò con un'occhiata che la avvolse in un alone di incertezza. «Sta per venire qualcuno», le disse. Ursula, come ogni volta che suo figlio esprimeva un pronostico, cercò di scoraggiarlo con la sua logica casalinga. Era normale che arrivasse qualcuno. La domenica, effettivamente, arrivò Rebecca. Non aveva più di 11 anni. Aveva fatto il penoso viaggio da Manaure con dei commercianti di pellame che avevano avuto l'incarico di consegnarla, insieme a una lettera, nella casa di José Arcadio Buendía, ma che non poterono spiegare con precisione chi era la persona che aveva chiesto loro il favore. Tutto il suo bagaglio era composto dal bauletto della roba, da una poltroncina a dondolo di legno con fiorellini colorati dipinti a mano e da un sacco di tela che faceva un continuo rumore di cloc, cloc, cloc, dove portava le ossa dei suoi genitori. Dal momento in cui arrivò, si sedette a succhiarsi il dito nella poltroncina a dondolo e a osservare tutti coi grandi occhi spaventati, senza dar mostra alcuna di capire ciò che le chiedevano. Portava un vestito di diagonale tinto di nero, sciupato dall'uso, e un paio di stivaletti di vernice scrostati. I capelli erano raccolti dietro le orecchie con nodi di nastro nero. Aveva uno scapolare con le immagini cancellate dal sudore e al polso destro una zanna di animale carnivoro incastonata in rame come amuleto contro il malocchio. La pelle verde, il ventre rotondo e teso come un tamburo, rivelavano una cattiva salute e una fame più vecchia della bambina stessa. Ma quando le diedero da mangiare, rimase col piatto sulle gambe senza assaggiare nulla. Si giunse perfino a credere che fosse sordomuta, finché gli indios le chiesero, nella loro lingua, se voleva un po' di acqua, e lei mosse gli occhi come se li avesse riconosciuti e disse di sì con la testa. Se la tennero perché non c'era altro rimedio. Decisero di chiamarla Rebecca, dato che in quel tempo non c'era cimitero a Macondo, perché fino a quel momento non era morto nessuno. In attesa che ci fosse un luogo degno per seppellirle, conservarono il sacco con le ossa. Per molto tempo diedero fastidio dappertutto e si intoppavano dove meno si supponeva, sempre col loro chiocciante chiocchiolare di gallina covaticcia. Passò molto tempo prima che Rebecca si integrasse alla vita della famiglia. Si sedeva sulla poltroncina a dondolo, nell'angolo più appartato della casa, e si succhiava il dito. Niente la interessava, tranne la musica degli orologi, che ogni mezz'ora cercava con occhi spaventati, come se si aspettasse di trovarla in qualche punto dell'aria. per parecchi giorni non riuscirono a farla mangiare. Nessuno capiva come non era morta di fame, finché gli indigeni, che si rendevano conto di tutto perché giravano instancabilmente per la casa coi loro piedi furtivi, scoprirono che a Rebecca piaceva soltanto mangiare la terra umida del patio e i calcinacci che staccava dai muri con le unghie. Era evidente che i suoi genitori o chiunque l'avesse allevata l'avevano rimproverata per quell'abitudine, perché lo faceva di nascosto e con coscienza di colpa, cercando di conservare le razioni per mangiarli quando nessuno la vedesse. Da allora la sottoposero a una sorveglianza implacabile. Innaffiavano il patio con fiele di vacca e ungevano le pareti di peperoncino piccante, credendo di poter vincere con quei metodi il suo vizio pernicioso. Ma lei mise in atto tali trovate e sotterfugi per procurarsi la terra che Ursula si vide costretta a adottare risoluzioni più drastiche. Versava succo di arancia e rabarbaro in un pentolino e lo lasciava all'aria aperta per tutta la notte, e il giorno dopo le faceva bere la pozione a digiuno. Anche se nessuno le aveva detto che quello era il rimedio specifico contro il vizio di mangiare terra, pensava che qualsiasi sostanza amara nello stomaco vuoto dovesse far reagire il fegato. Rebecca era così ribelle e così forte, malgrado il suo rachitismo, che erano costretti ad afferrarla per il mento e l'orecchio come un vitello per farle inghiottire la medicina, e riuscivano a malapena a domare i suoi sgambetti e a tollerare gli oscuri ghirigori che la bambina alternava a morsi e a sputacchi, e che secondo quanto dicevano gli scandalizzati indigeni erano le oscenità più grosse che si potevano concepire nel loro idioma. Quando Ursula lo seppe, completò il trattamento con le cinghiate. Non si stabilì mai se a ottenere l'effetto fu il rabarbaro o il bastone o le due cose combinate, ma la verità è che dopo poche settimane Rebecca cominciò a dar segno di ristabilimento. Partecipò ai giochi di Arcadio e di Amaranta, che la accolsero come una sorella maggiore, e mangiò con appetito, servendosi regolarmente delle posate. Ben presto si scoprì che parlava lo spagnolo altrettanto bene quanto la lingua degli indios, che possedeva una notevole abilità per i lavori manuali e che cantava il valzer degli orologi con parole molto graziose inventate da lei stessa. Non tardarono a considerarla come un membro in più della famiglia. Con Ursula era più affettuosa di quanto non lo furono mai i suoi figli, e chiamava fratellini Amarante e Arcadio e zio Aureliano e nonnino José Arcadio Buendía. Finì così per meritare quanto gli altri il nome di Rebecca Buendía, l'unico che ebbe sempre e che portò con dignità fino alla morte. Una notte, verso l'epoca in cui Rebecca guarì dal suo vizio di mangiare terra e fu portata a dormire nella stanza degli altri bambini, l'India, che dormiva con loro, si svegliò per caso e sentì uno strano rumore intermittente in un angolo. Si alzò a sedere, spaventata, credendo che fosse entrato un animale nella stanza, e allora vide Rebecca nella poltroncina a dondolo, col dito in bocca e con gli occhi illuminati come quelli di un gatto nel buio. Paralizzata dal terrore, afflitta dalla fatalità del suo destino, Visitation riconobbe in quegli occhi i sintomi della malattia, la cui minaccia li aveva costretti, lei e suo fratello, esuli per sempre da un regno millenario del quale essi erano i principi. Era la peste dell'insonnia. Cataure, l'indio, non attese l'alba per andarsene. sua sorella rimase perché il suo cuore fatalista le suggeriva che la malattia letale l'avrebbe inseguita in ogni modo fin nell'ultimo angolo della terra. «Se non dormiremo, tanto meglio», diceva José Arcadio Buendía di buon umore. «Così la vita ci renderà di più». Ma l'India spiegò loro che la cosa più temibile della malattia dell'insonnia non era l'impossibilità di dormire, dato che il corpo non provava alcuna fatica, bensì la sua inesorabile evoluzione verso una manifestazione più critica, la perdita della memoria. Significava che quando il malato si abituava al suo stato di veglia, cominciavano a cancellarsi dalla sua memoria i ricordi dell'infanzia, poi il nome e la nozione delle cose e infine l'identità delle persone e perfino la coscienza del proprio essere, fino a sommergersi in una specie di idiozia senza passato. José Arcadio Buendía, sbellicandosi dalle risa, ritenne che doveva trattarsi di una delle tante malattie inventate dalla superstizione degli indigeni. Ma Ursula, in ogni modo, prese la precauzione di separare Rebecca dagli altri bambini. Dopo parecchie settimane, quando il terrore di Visitación sembrava acquietato, José Arcadio Buendía si sorprese una notte a rivoltarsi nel letto senza poter dormire. Ursula, che era anche lei sveglia, gli chiese che cosa avesse e lui le rispose: «Sto ripensando a Prudencio Aguilar». Non dormirono un minuto, ma il giorno dopo si sentivano così riposati che si dimenticarono della nottataccia. Aureliano commentò stupito all'ora di colazione che si sentiva benissimo nonostante avesse trascorso tutta la notte nel laboratorio ad orare un fermaglio che aveva intenzione di regalare a Ursula il giorno del suo compleanno. Non cominciarono ad allarmarsi se non il terzo giorno, quando, all'ora di coricarsi, si sentirono senza sonno e si resero conto che ormai non dormivano da oltre 50 ore. «Anche i bambini sono svegli», disse l'India con la sua convinzione fatalista. «Una volta che entra in casa, nessuno sfugge alla peste». Avevano contratto, in effetti, la malattia dell'insonnia. Ursula, che aveva imparato da sua madre il valore medicinale delle piante, preparò e fece bere a tutti un beverone di aconito, ma non riuscirono a dormire e rimasero a sognare, svegli, per tutto il giorno. In quello stato di allucinata lucidità non soltanto vedevano le immagini dei loro stessi sogni, ma vedevano perfino gli uni le immagini sognate dagli altri. Era come se la casa si fosse riempita di visitatori. Seduta nella sua poltroncina a dondolo, in un angolo della cucina, Rebecca sognò che un uomo molto simile a lei, vestito di lino bianco e col collo della camicia chiuso da un bottone d'oro, le portava un mazzo di rose. Lo accompagnava una donna dalle mani delicate, che staccò una rosa e la infilò nei capelli della bambina. Ursula capì che l'uomo e la donna erano i genitori di Rebecca, ma per quanto si sforzasse di riconoscerli, si confermò nella certezza di non averli mai visti. Nel frattempo, per una negligenza che José Arcadio Buendía non si perdonò mai, si continuavano a vendere nel villaggio gli animaletti di caramello fabbricati in casa. Bambini e adulti succhiavano beatamente i deliziosi galletti verdi dell'insonnia, gli squisiti pesci rosa dell'insonnia e i teneri cavallini gialli dell'insonnia, di modo che l'alba del lunedì sorprese sveglio tutto il villaggio.